Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Questa è l'ultima puntata dell'appuntamento quotidiano con il programma e i saluti vi arrivano anche quest'oggi da Mire Lucchetti, Isotta Scenna che sono in redazione e Paolo Corleoni in regia. Anche quest'oggi potete mandare commenti e porre domande a me e ai miei ospiti via mail nessunluogo@radio24.it, gli sms 349-238-6666, vi avviso si parla già di Siria, ve lo dico già da adesso, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, infine Twitter Nessun Luogo 24. E come detto, dossier siriano caldissimo, partiamo proprio da lì. It is very clear tonight that while the House has not passed a motion, it is clear to me that the British Parliament, reflecting the views of the British people, does not want to see British military action. I get that, and the government will act accordingly. Yeah. E chissà se questo no del Parlamento inglese è suonato come uno schiaffone all'amministrazione Obama, che intanto però indiscrezioni dal Dipartimento di Stato cominciano a filtrare e lasciano intendere che il piano potrebbe andare avanti. Vediamo. In queste ultime puntate di Nessun Luogo Lontano ho cercato di dare più tasselli possibili della complessa crisi siriana. Ve lo ricordate? Abbiamo parlato di Israele, abbiamo parlato di Iran, abbiamo parlato di Libano e di Hezbollah. C'è un tassello, c'è un punto di domanda enorme che cercheremo di svelare quest'oggi ed è quella componente jihadista tra le fila dei ribelli siriani, quella che tanto fa saltare sulle sedie analisti e commentatori, perché quelle bandiere nere che sventolano tra le fila dei ribelli spaventano e come. Allora cerchiamo di capirne di più e do il mio buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano a Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore. Roberto, buongiorno a tutti. Allora, compito arduo quello che ti aspetta, è vero, perché tenteremo quest'oggi la mappatura dei gruppi qaedisti presenti tra le fila dei ribelli. Iniziamo a dare i numeri, che forse è la cosa migliore per orientarci in questo puzzle. Quanti gruppi jihadisti vi sarebbero tra i ribelli? Quanti gruppi riconducibili a sigle estremiste? Mettiamola così. Beh, la domanda da $1 milione, perché occorre una premessa. I gruppi armati in Siria, essendo l'opposizione, si creano e si disfano, alleanze che si creano e si disfano a seconda delle convenienze, quindi è molto difficile. Diciamo che si possono dividere gruppi più o meno affermati, noti, organizzati, che operano da alcuni mesi, e cellule composte da pochi elementi il cui ruolo è più marginale. Possiamo dire, poi potremmo affrontare il movimento più organizzato del Jabhat al-Nusra, forse la forza più efficiente, anzi sicuramente in seno all'opposizione armata, più efficiente e organizzata del libero esercito siriano, movimento che sposa l'ideologia di Al-Qaeda in cui militano mujahideen stranieri. Poi c'è via Ahrar al-Shams, è un movimento salafita, forse meno jihadista, ma non per questo meno agguerrito. Poi vi sono altri gruppi che fanno temere, come il gruppo di Al-Qaeda in Iraq, l'Aki, che ha collaborato con Jabhat al-Nusra e si è insediato in modo molto radicato nelle regioni orientali al confine con l'Iraq. Vi è anche, per la prima volta, che i ceceni operano al di fuori del teatro di guerra ceceno, un gruppo di ceceni che comincia a portare avanti le operazioni un certo successo, la Brigata dei Martiri, guidata dal noto ricercato Abu Omar al-Cecen. E poi vi sono anche delle cellule di jihadisti provenienti dai soliti paesi, Yemen, Arabia Saudita, i salafiti algerini, ma queste sono diciamo più disordinate e più difficili da identificare. E da inquadrare, è ovvio. L'abbiamo ricordato più volte in queste puntate in Nessun Luogo Lontano dedicate alla Siria, la situazione sul terreno è estremamente fluida, i gruppi armati sono tanti e c'è una preoccupante osmosi tra i gruppi armati, ma poi questo punto lo tocchiamo insieme, Roberto. Jabhat al-Nusra è forse la formazione che ha riportato più vittorie sul terreno negli ultimi mesi e che davvero ha fatto mettere la quinta ai ribelli in alcuni teatri, in alcuni luoghi più caldi del paese. Le capacità militari di questi gruppi, come possiamo sintetizzarle e riassumere? senza dubbio ragione, è grazie a Jabhat al-Nusra che l'opposizione armata, che non riceveva con gli armamenti forti, antiaerei che chiedeva all'Occidente per contrastare l'aviazione di Assad, è grazie a Jabhat al-Nusra che ha conseguito importanti successi. Va detto che prima Jabhat al-Nusra, che sposa l'ideologia di Al-Qaeda e punta a un califfato islamico in Siria, questo va ben detto, quindi ha un'agenda politica totalmente inconciliabile con altri gruppi più laici, Jabhat al-Nusra ha iniziato in clandestinità, quindi utilizzando l'arma principe del network del defunto Osama Bin Laden, gli attentati kamikaze, e ne ha portati avanti più di 70. Una volta più forte, armata da paesi del Golfo o da organizzazioni religiose non ancora identificate, Jabhat ha acquistato forza, supporto popolare e ora ha catturato alcune basi militari importanti, ha in mano armamenti più importanti, è uscito allo scoperto. Va detto che la conquista di basi aeroporti nella zona di Aleppo come Sheikh Suleiman in dicembre, base che il libero esercito siriano aveva provato molte volte a espugnare, è stata espugnata da Jabhat al-Nusra, una plateale dimostrazione di forza che l'ha posto come movimento, dicevo, più organizzato. Quindi è un movimento che adesso usa non solo più tattiche di guerriglia, ma proprio tattiche militari e confronti militari, cosa che irrita, diciamo, il libero esercito siriano, che lo vede un po' come indispensabile Jabhat al-Nusra perché sono molto organizzati, però sì, lo vede come una forza nettamente antagonista. Ecco, da quello che mi sembra di capire, fra l'altro tu sei riuscito anche a lavorare con alcuni di questi gruppi, a lavorare con, nel senso che quando hai fatto i tuoi reportage in Siria ti sei ovviamente dovuto rapportare anche con loro, la cui presenza sul terreno è importante. E non c'è solo, quindi, come dire, quella spregiudicatezza totale in barba anche al valore della vita, no? quel suicidio che viene commesso per abbattere il nemico, ma ci sono, mi sembra di capire, anche capacità militari, capacità tattiche che vengono messe in campo e che compensano una lacuna dell'esercito siriano, dell'esercito siriano libero. Beh, vi posso dire che durante la mia permanenza ad Aleppo nell'ottobre dell'anno scorso, quando la battaglia era molto forte nella città, sul fronte era evidente la differenza tra i membri dei movimenti di Jabhat, di Ahrar al-Shams, altro movimento fortissimo, e i ribelli che componevano le costole associate al libero esercito siriano. Quando, per esempio, esplodevano i tiri di mortaio di Assad, che erano molto forti, i soldati di Jabhat al-Nusra non si scomponevano, sparavano un colpo per volta, sembravano un po' come dei gatti, insomma. Si vedeva l'esperienza di chi ha combattuto per diversi anni in fronti caldi come Afghanistan e Iraq, tant'è che per entrare in Jabhat al-Nusra è necessario compiere un addestramento militare e una selezione molto forti. Ricordo che Jabhat è un movimento molto chiuso, clandestino, e nelle cui vertici militari militano molti mujahideen stranieri. Dopodiché lo Zoccolo 2 è formato nelle campagne, ma perché lì ha trovato un sostegno popolare, e questo è un altro discorso. Chiarissimo. Ci sono altri due capitoli che volevo affrontare con te, Roberto. Uno in parte l'hai già accarezzato, quando parli di quei gruppi che vogliono instaurare un califfato islamico, che, come dire, spariglia le carte in quello che potrebbe essere il futuro della Siria nella testa del libero esercito siriano. Dall'altra parte però c'è il consenso popolare. Quali di questi gruppi stanno riuscendo a muoversi con il consenso popolare? Quanti di questi stanno riuscendo a guadagnarsi la fiducia della popolazione e soprattutto in che modo? Beh, dunque, diciamo che innanzitutto, il modo con cui se lo sono guadagnato all'inizio è stato facilissimo: vuoto di potere, assenza di servizi sanitari, assistenza alimentare, istruzione. I gruppi sponsorizzati dai paesi del Golfo con tanti soldi offrono una sorta di welfare all'araba, ad Aleppo non c'erano negozi, non c'era cibo, non c'erano servizi di prima necessità, offrono in cambio di un avvicinamento al movimento, in cambio di sostegno. È ovvio che in queste situazioni estreme poi l'elemento religioso è un movimento che traina la popolazione. Jabhat quindi aveva addirittura all'inizio di quest'anno degli uffici di, diciamo, non dico di collocamento, ma dava lavoro, impiegava, aveva un certo sostegno. Ora l'entrata, la fusione, anche se controversa, tra Jabhat al-Nusra e il gruppo di Al-Qaeda in Iraq l'ha messo un po' in cattiva luce, comunque è ancora molto popolare. Ancora più popolare è Ahrar al-Shams, che è un movimento che, al contrario di Jabhat al-Nusra, siriano, ha 10.000 combattenti, è molto salafita, però ripudia il jihadismo internazionale Al-Qaeda, almeno a parole, e punta all'installazione di un califfato. E che cosa fa questo movimento? È ben importante, insieme ad altri movimenti salafiti. vede la lotta alla guerra civile in Siria non come una guerra tra Assad e la popolazione, anche questo, ma soprattutto sì, una guerra contro gli sciiti più grandi. Noi dobbiamo scalzare gli sciiti, in questo caso gli alawiti, dal potere e portare i sunniti. E quindi le garanzie che poi in una Siria futura, in una nuova Siria, potranno convivere le tante minoranze etniche e religiose che caratterizzano il tessuto sociale siriano, insomma, sono speranze molto affievolite. Certo. E quella frattura tra le due correnti dell'Islam che tanti morti sta causando anche in Iraq, molto spesso non se ne ha notizia perché quando c'è l'autobomba vi sono almeno 70 morti e tutto quest'anno il numero, la cifra è veramente incredibile, e insomma dalle tue parole rischia appunto di riproporsi in maniera preponderante grazie a una di queste costole. Grazie mille Roberto Bongiorni per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti. E poi dovevo darvi conto, perché ieri davvero sono arrivati tanti sms, commenti e tweet sul dossier siriano, appunto. Due su tutti, un ascoltatore via Twitter mi chiedeva se le batterie di missili Patriot in Turchia fossero armamenti turchi o che provenivano dalla NATO. Allora, vi è stato un invio plurimo negli ultimi mesi, sia a gennaio, l'ultimo ad agosto. L'ultimo arrivo delle ultime due batterie di missili Patriot sono armamenti NATO che provengono dagli Stati Uniti, sono lì appunto dal 10-11 agosto circa. E poi sempre il fronte turco, Alberto Tetta, che è un collega da Istanbul che abbiamo anche ospitato in Nessun Luogo è Lontano, ci ricordava sulla pagina Facebook di Nessun Luogo che il 1 settembre curdi e sinistra radicale manifesteranno contro l'intervento, possibile intervento turco in Siria. Nessun luogo è lontano. E in questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano vi porto subito a Hebron in Cisgiordania, perché il suono, la musica, la festa che avete sentito era una festa palestinese, e a cui a un certo punto si dovrebbe dire, no, quando c'è una festa si imbuca. Ebbene, si sono imbucati tre ospiti eccezionali, nel senso che non erano evidentemente attesi. Tre soldati dei reparti d'élite dell'esercito israeliano che hanno mostrato che cosa? Quello scollamento incredibile che a volte avviene tra la grande, l'alta politica estera e invece quello che accade sulla strada, nei locali e tra la gente. E quindi, mentre si sono nuovamente interrotti pochi giorni fa i colloqui di pace israelo-palestinesi, che dovevano riprendere dopo 3 anni di interruzioni, si sono interrotti perché era stata un'incursione della polizia israeliana in un campo profughi vicino a Ramallah con la morte di 3 palestinesi e il ferimento di altri 19. I palestinesi hanno detto stop ai colloqui e intanto però i 3 militari israeliani hanno passato una serata che pare che l'esercito farà loro rimpiangere, perché il video postato su YouTube ha fatto ovviamente il giro del mondo, ha mostrato un aspetto forse meno conosciuto di quei luoghi, però evidentemente non è stato gradito dall'esercito israeliano. E do il mio benvenuto, ben ritrovata, a Paola Caridi, Invisible Arabs fra gli altri. Buongiorno Paola. Buongiorno a voi. Allora, il senso di questa seconda pagina Nessun Luogo è Lontano è, fra le altre cose, di mostrare degli aspetti, forse del Medio Oriente, un po' meno conosciuti. Questo episodio di cronaca è capitato un po' a fagiolo da questo punto di vista. Però Paola, con te volevo partire da un altro aspetto che è collegato alla crisi siriana e che nessuno ancora ha detto, ha letto, ha scritto adeguatamente, dando adeguata importanza, ma c'è un grandissimo numero, un altissimo numero di profughi palestinesi in Siria. Sì, i profughi palestinesi del 1948 e del 1967 sono distribuiti non proprio equamente, ma quasi, fra Libano, Giordania e Siria, che sono i 3 paesi in cui si concentrano i campi profughi, i campi dei rifugiati palestinesi assistiti peraltro dalle Nazioni Unite. Bene, tra le vittime o fra le persone coinvolte nel disastro siriano ci sono anche profughi palestinesi, anche politica palestinese. Non dimentichiamo per esempio che subito dopo, alcuni mesi dopo lo scoppio della rivoluzione siriana, l'intero Stato Maggiore di Hamas, l'intero ufficio politico all'estero, abbandonò quello che era stato per anni il suo rifugio politico sotto, come dire, l'ala protettrice di Bashar al-Assad, se ne andò e si divise fra Qatar, soprattutto fra Qatar ed Egitto. Ma politica a parte, c'è questo lato della storia della tragedia siriana che comprende anche non siriani e dunque palestinesi che sono lì da decenni, che sono stati anche vittime, nel senso che sono morti nei bombardamenti, sono morti negli scontri, differenti posizioni politiche, cioè sono stati per anni sotto il regime degli Assad, però non è detto che tutti sposino il regime degli Assad. Ecco, ci tenevo a partire con questa prima considerazione per dare agli ascoltatori un ulteriore punto di vista sulla drammatica crisi siriana. Leggete sui titoli giornali: possibile, polveriera, complesso, puzzle. Ecco perché l'avete ascoltato in questi giorni. Quanti attori sono coinvolti, non solo a livelli alti della politica, non solo i voti nei parlamenti, intervento o non intervento, ma persone, quante persone. Ai noi. Allora, andiamo avanti nel tentare di spiegare crisi israelo-palestinese, quelli che sono forse gli aspetti meno nascosti. Intanto, Paola, quando ci sentimmo inizio d'agosto, tu eri assolutamente scettica sulla ripresa dei colloqui e noi, la storia recente ti ha dato ragione. Mi dispiace di essere un po' di fare il ruolo della Cassandra in questi casi, perché, come dire, in genere nella vita sono un ottimista. Il problema è fare i conti, poi, che la realtà sul terreno e su quanto di non risolto vi sia anche quando si fanno trattative di pace. Uno degli aspetti chiave delle trattative tra israeliani e palestinesi è la condizione di Gaza, quella striscia di cui spesso i giornali e anche l'iconografia, voi sapete che la fotografia è una delle mie passioni, uno dei miei strumenti anche di lavoro, e spesso chiedo aiuto e consulenza ai fotografi nel raccontarci le cose. Ebbene, spesso l'iconografia di Gaza che ci viene consegnata dai media è drammatica, è tragica, è molto triste. E mi è interessato invece un lavoro che ha fatto Alessandro Gandolfi, che è un fotografo fondatore fra gli altri di Parallelo Zero, che ci ha mostrato un po' la Gaza diversa, la Gaza più nascosta. Ascoltiamo insieme. A me interessava raccontare questo aspetto di Gaza, pur tenendo fermo il punto che Gaza è una striscia assolutamente negativa dal punto di vista politico. Cioè, con i miei servizi non ho cercato di alimentare un aspetto positivo, non voglio mettere, o meglio, voglio raccontare quelli che sono alcuni aspetti positivi di Gaza, o perlomeno mostrare come in realtà Gaza, appunto striscia di terra che è un inferno a cielo aperto, dove nessuno può uscire, dove in realtà ci sono attacchi violenti, li abbiamo visti tutti, abbiamo visto tutte le immagini degli ultimi attacchi di Israele su Gaza, quindi ovviamente questo è un punto fermo. A me interessava invece mostrare come in realtà a Gaza poi ci sia anche altro, ci siano giovani che vogliono divertirsi, non ci sia solamente estremismo religioso, ma anzi ci sono giovani che guardano con interesse l'Occidente, che vanno su Facebook, che vorrebbero uscire, vorrebbero vedere il mondo, ma non possono perché, a differenza di qualunque altro paese al mondo, non hanno un passaporto e non possono uscire da casa loro. C'è una borghesia, esiste una borghesia che sopravvive nonostante tutto, nonostante l'embargo, nonostante Gaza sia sostanzialmente chiusa anche dal punto di vista commerciale. Sappiamo tutti che gran parte degli oggetti, dei rifornimenti che arrivano a Gaza arrivano attraverso i tunnel che sono sotto il confine egiziano, quindi insomma, e anche questi tra l'altro spesso vengono chiusi, bombardati, insomma la situazione è drammatica. Eppure nonostante questo c'è una borghesia che cerca di fare una vita normale, quindi ambisce a quelli che sono i desideri di qualunque borghesia locale, quindi una bella macchina, una serata al ristorante con la famiglia, una serata al bar giocando a biliardo, una notte trascorsa magari, o una giornata trascorsa sulla spiaggia con la famiglia, magari giocando con la palla o nuotando. Ecco, questo a me interessava raccontarlo, perché poi spesso si rischia magari di mostrare di Gaza solamente una faccia. L'altra faccia di Gaza, quella più gioiosa, più vitale, spesso ignorata dai media principali, è il lavoro di Alessandro Gandolfi. Sulla pagina Facebook del nostro programma poi piazzeremo il link, così potete andarvi a vedere le foto. Non c'è solo la borghesia, c'è anche molto altro, ma adesso poi ci arriviamo, perché le altre storie che ha fatto Gandolfi a Gaza sono interessanti. Paola Caridi, fammi fare un passo indietro però. I colloqui che sono saltati, quali erano i punti sul tavolo? Quali sono, ricordiamolo ancora una volta, i grandissimi nodi risolti della questione? Ma i grandissimi risolti sono i confini, sono le colonie, sono Gerusalemme. Gaza in questo caso, nel caso dei negoziati di pace, è un po' di lato, nel senso che poi i negoziati parlano soprattutto di Cisgiordania e Israele. Cosa che secondo me fa di questi negoziati dei negoziati monchi, perché si trova una soluzione complessiva, compresa la soluzione su Gerusalemme, oppure non si trova. E la questione delle colonie è fondamentale, perché poi si è visto che poche settimane dopo, anche pochi giorni dopo l'inizio dei negoziati, la richiesta di sospensione di crescita delle colonie non è stata esaudita, anzi. Paola, prima di dare la linea al traffico, andiamo a vedere come va la viabilità sulle strade. Abbiamo già capito come il caso siriano impatta sui palestinesi. Quali altri fattori secondo te possono condizionare la questione? Cioè, cosa può accadere in un senso o nell'altro che vada a impattare sulla situazione dei palestinesi oggi? Ma secondo me il caso siriano è il caso più importante, nel senso che il conflitto israelo-palestinese diventa di nuovo periferia della situazione medio orientale. E poi il caso egiziano è evidente, perché la posizione dell'Egitto nell'ultimo anno, con la vittoria dei fratelli musulmani, aveva anche cambiato l'equilibrio tra Fatah e Hamas, nel senso che l'Egitto e la Turchia avevano sostenuto, in sostanza, se non proprio le posizioni di Hamas, almeno avevano riequilibrato dal punto di vista degli attori internazionali il confronto fra le due fazioni principali palestinesi. Quello che è successo in Egitto sposta di nuovo l'equilibrio, sbilancia di nuovo, e questo non potrà che influire poi sulla stessa unità palestinese, come ha già influito in questi ultimi giorni. Chiarissimo, se nell'agenda, la grande agenda internazionale, la questione israelo-palestinese forse sta diventando un po' questione di margine, come diceva la Caridi, il senso di questa puntata di Nessun Luogo Lontano è proprio di riportarla sotto i riflettori. Nessun luogo è lontano. E sull'onda di quell'incursione israeliana in un campo profughi vicino Ramallah, quei tanto agognati inizi di colloqui israelo-palestinesi si sono arenati, e intanto però a Gaza su ben altre onde cavalcano i giovani surfisti. La cosa era nata casualmente, avevo trovato online un articolo dedicato a questo club, al Gaza Surf Club, e la cosa mi aveva particolarmente incuriosito, soprattutto dal punto di vista fotografico. Io sono un fotoreporter, e quindi la mia idea era proprio quella di andare a Gaza e cercare di raccontare la loro vita quotidiana, cercare di raccontare chi erano questi ragazzi che insomma sfidavano le piccole onde, perché alla fine poi sono delle piccole onde, ma in realtà poi metaforiche, simboliche di un tentativo di ottenere libertà, o perlomeno di un anelito di libertà in una striscia infernale dove non si può uscire, dove i ragazzi non possono far altro che appunto cercare di divertirsi anche surfando, appunto, anche se appunto le onde non sono molto alte, però appunto è un gesto simbolico. Sono stato a Gaza e ho cercato di contattare questi ragazzi, li ho conosciuti, ho vissuto qualche giorno con loro e mi hanno mostrato una Gaza appunto che non conoscevo. Io non ero mai stato a Gaza, quindi non avevo letto diversi articoli su questa striscia maledetta, questo luogo governato da un partito estremista come Hamas, però appunto mi aspettavo di trovare un mondo più cupo, più intollerante, invece ho trovato invece tante persone disponibili, aperte, mi hanno accolto in maniera fantastica e appunto ho vissuto con questi ragazzi che fanno surf, che mi hanno accompagnato nelle loro scorribande lungo la spiaggia, ma anche insomma di giorno nei campi da calcio, negli internet point dove questi ragazzi cercavano di comunicare con amici europei. Facebook è uno strumento che forse a noi può apparire così, uno strumento un po' inutile o voluttuoso, però a Gaza ho capito come in realtà Facebook possa avere un ruolo importante per questi ragazzi che appunto possono chattare con persone che non, probabilmente non vedranno mai nella propria vita, o si spera che li vedranno prima o poi. In questo momento no, Gaza è un luogo totalmente chiuso, ermeticamente chiuso, e nessuno può entrare, nessuno può uscire, quindi. Sì. E qual è la giornata tipo di un surfista di Gaza? Ma questi ragazzi più o meno tutti lavoravano, quindi c'era, mi ricordo, Mahmoud che lavorava al mercato col fratello, c'era un certo Ibrahim che studiava da, mi ricordo, da infermiere, anzi l'anno dopo quando sono tornato a Gaza l'ho trovato proprio che lavorava già come infermiere nell'ospedale di Gaza City, e sfruttavano tutte le ore disponibili che avevano per andare appunto a cercare di catturare l'onda, diciamo, e quindi la domenica, il pomeriggio tardi, si ritrovavano in questo club che c'è poco a sud di Gaza City, sulla spiaggia, un club che per te è un bagno in legno costruito dal loro maestro. Anno dopo anno hanno costruito questa sede del Gaza Surf Club e da 5-6 ragazzi quali erano all'inizio si sono ritrovati in una cinquantina nell'ultimo anno. Siamo con Paola Caridi di Invisible Arabs, fra le altre cose, la potete leggere lì ma anche sulla stampa per esempio. Paola, Alessandro Gandolfi ci consegna un tratteggio di Gaza forse troppo elegiaco, oppure come dire la verità sta sempre in mezzo, c'è quell'agrodolce, c'è quella... No, mi sembra un ritratto perfetto, chi fa surf così come chi fa parkour a Gaza, sì, che è una delle altre storie che ha fatto Alessandro, sì. Che fa uno sport da pochi soldi, cioè non ci vogliono grandi investimenti per andare a fare surf o per andare a fare parkour, si ha a che fare con il proprio luogo, col mare, con l'architettura urbana, con quello che c'è, con la sabbia, e si usa quello che si ha, e mi ha fatto piacere che sentire Alessandro Gandolfi che parlava del mare, perché la striscia di Gaza è una striscia sul mare, sì. E quindi c'è questa apertura almeno visiva, quando si arriva a Gaza si guarda subito il mare perché si pensa che lì ci sia l'infinito, che ci sia un orizzonte lontano, eppure anche quella è una sorta di strana vetrina, di strana finestra che sembra infinita, invece infinita non è, perché anche quel mare è chiuso, cioè la chiusura di Gaza non è solamente sui tre lati di terra, ma anche lì dove c'è l'acqua, che è invece da noi un'acqua che guardiamo come se fosse il mondo, sì. Anche quel mondo è chiuso, sì. Quindi anche quelle piccole onde sono contenute, però non è elegiaco secondo me il ritratto di Alessandro Gandolfi, anzi bisogna solamente comprenderlo noi come non elegiaco, nel senso che in qualsiasi posto anche disperato c'è una necessità dei ragazzi, dei vecchi, delle persone di mezza età di avere un rapporto con il mondo e con i propri sogni, con i propri desideri, e questo rapporto non può mai finire anche in una situazione disperata. Sì, e questo prescinde assolutamente, lo dicevamo all'inizio, dalla politica. Intanto un SMS, Paola, che dice: ma come, nessuno può entrare a Gaza, e il fotografo come c'è entrato illegalmente? No, perché si ha la possibilità. Noi siamo in fondo una classe privilegiata, anche non dal punto di vista dei soldi, ma almeno dal punto di vista dei permessi. Un permesso stampa si può riuscire a ottenere, sì, anche se non è facilissimo. Non è facilissimo, non a tutti viene dato, e io con quel permesso stampa sono entrata a Gaza. Questo è vero con pochissime persone, che sono persone un po' strane, come sì, sono i giornalisti, come sono anche degli imprenditori, perché alcuni imprenditori palestinesi riescono a entrare in casa, i funzionari delle organizzazioni internazionali, diplomatici. Queste sono le poche persone privilegiate che riescono a entrare a Gaza. Il vero problema è che le persone di Gaza non riescono a uscire. Ci sono intere generazioni che hanno vissuto solo ed esclusivamente a Gaza. Quando dico vissuto, vissuto, e poi sono morti solo ed esclusivamente in quel posto. Sì. Cioè non hanno mai avuto la possibilità di vedere oltre, tant'è che poi la realtà virtuale, appunto Facebook, fa sì che loro riescano a vedere non solo l'Europa, ecco, questo è l'unico appunto che faccio, Alessandro Gandolfi, non solo l'Europa, ma il mondo. Sì. Allora, abbiamo citato il parkour perché era una delle altre storie che ha fatto Alessandro Gandolfi ed è la foto che abbiamo postato sulla pagina Facebook del nostro programma. E poi il parkour, se ci consentite, come dire, è particolarmente simbolico, perché forse lo conoscete, è quella disciplina che prevede di saltare le barriere architettoniche, cioè andare da un punto A a un punto B e saltare tutto quello che si incontra, che sia un balcone, che sia un muro, che sia una terrazza, che sia un palazzo. E poi parlare di Gaza e citare i muri, direi che ascoltiamo. C'era un gruppo di ragazzi, in realtà erano due, Mohammed e Ibrahim, se non ricordo male, due ragazzi che vivevano vicino a Rafah, quindi a sud della striscia, proprio nella zona sud al confine con l'Egitto, e questi due ragazzi avevano scoperto il parkour navigando su YouTube e si erano inventati da soli questa attività, inizialmente facendo parkour nel loro villaggio. Poi in realtà avevano suscitato un po' di ilarità, anche un po' di preoccupazione, così loro raccontavano, tra i responsabili di Hamas, che vedevano un po' questo sport come rappresentativo così dell'Occidente, un po' uno sport occidentale, e non capivano bene cosa facessero questi ragazzi che saltavano da un muro all'altro, da sì, una finestra all'altra. E quindi questi ragazzi decisero di andare a far parkour in un cimitero, nel cimitero locale, e quindi li ho seguiti mentre saltavano da una tomba all'altra, da un muretto all'altro, e anche questi hanno poi avuto un seguito, e ho saputo che negli ultimi 2 anni i ragazzi che praticano parkour a Gaza sono aumentati di diverse decine. È molto simbolica, no, questa storia, Paola Caridi, insomma, si salta di muro in muro e poi finisco in realtà a saltare di tomba in tomba, sembra quasi una sceneggiatura scritta. Sì, anche tra le macerie dei palazzi distrutti dai bombardamenti, sì, ci sono delle foto, appunto delle immagini che parlano anche di questo, e poi per puro caso ho imparato che i ragazzi di Gaza attraverso il parkour vanno anche fuori, hanno fatto una tournée in Italia, ma hanno su Facebook appunto anche una pagina che è la sezione italiana di Gaza Parkour, una cosa un po' strana, sì, fatta da ragazzi siciliani, da ragazzini siciliani che si sono messi in contatto con loro via Skype. Parliamo sempre di realtà virtuale, se certo, ci pensiamo bene, ma anche di comunicazione fra persone reali attraverso una realtà virtuale. E i ragazzi di Gaza hanno cominciato a raccontare la loro vita a Gaza e poi a chiedere ai ragazzi siciliani: ma perché non aprite una pagina su Facebook che è la nostra sezione italiana? E così è successo, sì, e questa devo dire che è poi la parte più piacevole, insomma, che questi muri di cui parliamo e che si possono saltare in questo modo poi mettono in strana comunicazione luoghi che dal punto di vista geografico sono distanti. Per questo strano paradosso. Grazie Paola Caridi per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi. E allora ho 30 secondi per rispondere all'ascoltatore che diceva: anche le ragazze a Gaza surfano? La risposta è sì, guardate le foto di Gandolfi. Per ringraziare Mire Locchetti, Isotta Scenna, che hanno confezionato con me le puntate di questo mese di Nessun Luogo Lontano, Paolo Colleoni, che ha dato musica e ritmo anche a quest'ultima. Questo weekend c'è il meglio di Il Magazine in versione settimanale col meglio della settimana, e dal sabato l'altro ci risentiamo con la versione settimanale del programma. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.